Bene, dopo le due ampie relazioni e molto ricche e stimolanti dei miei di chi mi ha preceduto, io mi limiterò a delle riflessioni molto brevi che non dureranno più di 5 minuti. Praticamente farò un po' da dessert a queste due relazioni che mi hanno dato molto da pensare, che mi sembrano anche molto incisive e anche meritano di essere discussi adesso anche dal pubblico. Dunque, abbiamo visto, e Belardi ci ha confermato come diciamo, la memoria e la storia siano due concetti molto contesi in questa fase. Vedo che c'è un'inflazione di memoria, anche, lo sto anche nel mio ambito storiografico, appena 3 settimane fa è uscito questo volume che si chiama Erinnerungskulturen. Qua vengono felicemente uniti due concetti di memoria e di cultura, due concetti inflazionistici a quanto più posso. Insomma, c'è una inflazione totalizzante. Un libro in sé interessante che unisce le esperienze della Germania, dell'Italia e del Giappone dopo il 1945, però. Vediamo che il concetto di memoria, che è così totalizzante, temo anch'io che non ci possa dare molti stimoli per vivere un presente sempre più difficile. Anzi, penso che proprio la perdita di memoria, la incapacità di formare una grande narrazione anche del passato, porti a questa attenzione anche eccessiva della memoria. In questa terra, qua nel Sud Tirolo, Alto Adige, la storia e la memoria hanno fino a poco, penso, avuto un ruolo determinante e lo hanno in parte tuttora. Io vedo un fenomeno interessantissimo che c'è, diciamo, da una parte un'attenzione forte alla storia, che ogni tanto appare in modo molto violento, dall'altra parte è controbilanciata da un presente che risento come elemento ancora più forte, diciamo. Chi ha vissuto in questa terra ancora 20-30 anni fa con una concezione aperta, ha visto come ancora in quel periodo la storia era determinante. Il passato degli anni 40, 50, il ventennio formavano ancora, diciamo, delle identità molto forti. Queste identità sono tuttora sentite, però sono come un patchwork, come un network che viene praticamente sempre più trafilato dal presente. E la memoria la vedo sempre più come, diciamo, un fenomeno individualizzato. C'è un fortissimo bisogno di memoria nella società locale, sudtirolese, tedesca, intendo, in primo piano. Chi guarda il Dolomite, ogni giorno ci sono gli inserti per i morti che formano un culto di una memoria eccessiva. È un fenomeno che trovo agghiacciante, interessante, un forte senso della memoria, però a livello individualizzato, sempre più individualizzato, un forte bisogno anche di essere tristi, di ricordare, insomma, però a livello individuale. Mentre dall'altra parte vedo un presente che unisce in modo molto marcato elementi di un'attualità scottante con dei riferimenti storici. E io ritengo, per quanto riguarda il gruppo sudtirolese in lingua tedesca, che questo sia un risultato di un processo che lo chiamo sempre un processo di formazione di nazione a livello provinciale, una specie di building at provincial level. Praticamente il Sudtirolo in lingua tedesca si è formato come piccola nazione e questa nazione piccola ha una storia conquistata che non bisogna tirare fuori in ogni momento e ha un presente ancora più forte di cui essere fiero. E questo processo di regionalizzazione è un processo che avvertiamo in tutta l'Europa in un certo senso. È un po' complementare a quanto ha detto Belardinelli che ha registrato un processo di snazionalizzazione in un certo senso. Questo senso di regionalizzazione si verifica però anche in territori come la Spagna o come nella Scozia. Anche lì vediamo, diciamo, lo studio attento della stoffa del kilt, ormai è una forma molto interessante da registrare anche nelle nostre parti, dove per esempio intorno al mito dell'Oden viene costruito un nuovo mito regionale. Se andate in Valpusteria, ormai ci sono i Lodenwelten dell'Oberau, che è una specie di marketing, però allo stesso tempo anche la formazione di un'identità regionale molto forte, non più imperniato sulla storia, ma su un'attualità. All'insegna dell'economia, ma anche di una regione, di una genuinicità, di qualcosa di genuino. Ecco, queste sono strategie che avvertiamo in tutta l'Europa. In Sudtirolo, in Alto Adige, per quanto riguarda l'identità politica, e questo lo vorrei mettere un po' a tavolino, come una vena anche un po' polemica, abbiamo, diciamo, un'identità politica della nazione Sudtirolo che si basa su un'ampia simbologia che unisce la localizzazione e la modernità alla tradizione. Praticamente il Loden da una parte è qualcosa di molto tradizionale, dall'altra parte è qualcosa che viene fabbricato nel nostro territorio e cucito in Romania. Praticamente abbiamo questi due aspetti molto ben uniti. Per personalizzare un po' questa simbologia tra presente e passato, vorrei mettere a tavolino le tre figure chiave che simboleggiano su Tirolo Alto Adige, soprattutto tedesco, questo insieme di valori tra globalizzazione e modernità. In primo piano, il presidente della regione, il nostro Durnwalder, che incarna della provincia, scusa, della provincia, non ancora, che incarna l'immagine dell'eroe nazionale di origini contadine, l'operosità, la furbizia e la consapevolezza e anche l'esercizio del potere, ma allo stesso tempo la sensibilità sociale che gli permette di irradiare una virilità dimostrativa. Praticamente in questa figura si riprendono degli elementi attuali di manager. Da una parte e dall'altra parte si riprendono figure elementi del passato come la costanza, la tradizione, eccetera. La seconda figura simbolica è quella dello scalatore Reinhold Messner, l'uomo che incarna il superamento di tutti i limiti, al contempo anche l'apertura mentale, il successo economico e in quanto europarlamentare dei Verdi, la dissidenza politica, praticamente la coincidenza oppositorum che è incarnata in Reinhold Messner, anche lì praticamente l'unione di elementi contrapposti. E infine fondamentale in questo sistema di identità regionali imperniate sul presente e sul passato. C'è una terza figura, il terzo local hero che conoscete benissimo, è il nostro Ötzi, l'uomo di ghiaccio. È una reliquia secolare e garanzia di eternità per il Sudtirolo. In questo ha quasi una valenza religiosa in un certo senso. La mummia che risale all'età della pietra, ritrovata nel 91 al confine col Tirolo del Nord, e a fatica strappata dal controllo della regione austriaca, comunica dai sudtirolesi un chiaro messaggio: così come l'uomo dei ghiacci si è conservato per migliaia di anni, allo stesso modo è garantito alla terra sudtirolese un posto nella storia dell'umanità. Praticamente per questo questa reliquia assume un valore non soltanto di marketing, ma anche di identità. Dunque, l'icona di Ötzi irradia la promessa dell'immortalità e trasferisce alla popolazione locale la certezza di una sopravvivenza anche oltre i tempi lunghi della storia. L'uomo di ghiaccio, dunque, è l'ingrediente conservato con cura di una nuova assicurazione per l'Alto Adige che si è formata dopo decenni di faticosa autoaffermazione, autodeterminazione. Dunque la triade, Durnwalder, Messner, uomo di ghiaccio, deriva la propria legittimazione e molte delle sue caratteristiche da eroi antichi, il ricordo dei quali è rimasto come imbalsamato negli strati più reconditi della memoria collettiva. Dunque le loro immagini di un'umanità estrema, di una maschilità estrema, ma anche dirompente, rimandano però all'icona sbiadita, ma tuttora pregnante, di Andreas Hofer, che liberò il Tirolo dal dominio bavarese del 1809. Praticamente con questo ho voluto far vedere come queste tre figure da una parte sono molto attuali, molto in un certo senso vitali come marketing, come potere, come dissenso, ma dall'altra parte rimandano anche a un passato che ormai è un po' lontano dalla figura di Andreas Hofer. E non per caso la Caterina Lanz, che rappresenta un po' anche la nazione ladina, è una donna, e questo è, diciamo, è marcante, no? Poiché le piccole nazioni, le piccolissime nazioni poi assumono la figura di donna rispetto a questa nazionalità molto maschilista che rappresentano queste tre figure. Dunque questi elementi, diciamo, che ho segnalato adesso con estrema, diciamo, superficialità, dimostrano in un certo senso come in una identità regionalista attuale si fondano degli elementi di tradizione, di memoria, con degli elementi direi anche postmoderni, come queste identità sono una specie di bricolage che viene rimescolata in modo abbastanza singolare. Questo è un fenomeno che ci sembra importante e che è ancora tutto da analizzare, diciamo, questo rapporto tra passato e presente, tra memoria e attualità, è una effervescenza che mi sembra al momento attuale assolutamente interessante e da analizzare. E questo breve esempio un po' è servito come punto di chiusura e anche come punto di discussione. Grazie. Allora, sintetizzato il suo intervento in 10 minuti ci consente di sviluppare 15-20 minuti di dibattito. Le persone interessate possono formulare domande, fare brevissimi interventi. Sempre quel paese che, a differenza, appunto, come diceva anche lei, soli della Francia, dell'Inghilterra, così ha un qualcosa di anomalo, qualcosa di anomalo. Lei però non ha mai fatto un minimo di analisi, ma non perché io pretenda una spiegazione o un suo preciso punto di vista, bisogna però chiedersi perché, ad esempio, si arrivi delle volte, le citava il caso della polemica, quindi passiamo all'autorità, bocca pansa. Ecco, la polemica bocca pansa è una spia piuttosto brutta, nel senso che pansa ha il merito di, come dire, fare un lavoro molto onesto, di portare alla luce una verità, delle verità scomode che in questo paese, quando si toccano certi, come chiamarli, argomenti, certi tasti, scattano delle molle. Queste molle non dovrebbero scattare se si è onesti intellettualmente, e io non voglio fare polemiche, il signor Giorgio Bocca evidentemente non è un intellettuale, perché dovrebbe stare zitto, perché intanto il lavoro di Fanse non viene da una persona che è ideologicamente collocata su una certa sponda, per cui non potrebbe dire è un discorso di parte, un discorso interessato, e io riconosco a Fanse appunto questa onestà, questo coraggio di dire o di rivelare ciò che è successo in quel triangolo emiliano, se non sbaglio, io non ho letto ancora il libro, comunque, della zona, se non sbaglio, di Reggio e Modena, Reggio Emilia e Modena, più o meno, quell'area di triangolo, il cosiddetto triangolo rosso, e si parla appunto di circa 19.000 morti. Allora io non capisco la polemica, non capisco questa reazione di Giorgio Bocca. Ecco, allora, per concludere, forse mi sono spiegato, certamente si può anche parlare di memorie, memorie soggettive, se non sbaglio, memorie relative, sì, però forse si può anche correre il rischio di relativizzare tutto, di buttare tutto in un calderone equivalente, cioè voglio dire che fin tanto che ci sono queste reazioni appunto in merito a lavori storici che mettono, come dire, portano alla luce determinate verità scomode, non si arriva a capo di nulla. Cioè questo paese è destinato a non avere un minimo di memoria, di terreno comune su cui, come dire, concordare anche dal punto di vista politico. Cioè, perché io credo che sia ora di finirla, che sia ora di finirla, da parte di alcuni, e possiamo pensare su, come dire, a ambienti culturali, politici, di pensare di essere i depositari della verità. Cioè la storia non può essere ideologizzata e non può essere quindi interpretata politicamente, bisogna avere appunto il coraggio dell'onestà come è stato fatto in questa occasione. Se ci sono altre domande, se no diamo la parola al professor Bellardelli. Capisce che nell'intervento, il suo intervento del signore che ha parlato adesso, poi in realtà alla fine mi sembra che un po' le parole conclusive non erano più ottimistiche, insomma, del mio discorso. Insomma, appunto lei ha parlato del rischio distruttivo, perché c'è bisogno di un terreno comune. Certo che c'è bisogno, ma il problema è se non c'è come si fa? Innanzitutto, secondo me, appunto, ma non voglio ripetere cose che ho detto prima, bisognerebbe prendere atto delle cose come stanno. Ma ecco, mi veniva in mente a proposito della polemica Bocca-Pansa. Lì il problema non è naturalmente quello della polemica, figuriamoci. Penso che sia meglio, io sono sempre a favore delle polemiche piuttosto che gli accordi e le pappette unanimistiche, benissimo. Lì il problema è degli insulti, cioè in Italia molto spesso si pensa che una polemica sia dare del delinquente a chi la pensa diversamente, o dire che c'è qualcosa dietro, cioè ci si è fatta un'interpretazione della storia nazionale dell'Italia repubblicana, tutta la teoria del doppio Stato è questo, cioè pensare che, insomma, la cosa è sempre più complicata e c'è sempre qualche cosa dietro che non si vuole dire e riconoscere. E mi viene anche in mente che sarebbe successo se Pansa fosse stato di destra, perché lei dice ovviamente una cosa giustissima e dice una cosa molto triste, in cui, insomma, non c'è quasi pessimismo sufficiente per commentare questa cosa. Che sarebbe successo se Pansa fosse stato, ma sì, un ex repubblichino, e perché? Non le poteva dire se era stato un ex repubblichino? Eh no. Forse no, e appunto, però questo è molto triste, insomma, che esista questo meccanismo per cui poi alla fine, insomma, questo sarà un grande successo. Il precedente libro di Pansa ha venduto 80.000 copie, quello appunto su i ragazzi di Salò, come si chiama. Questo venderà secondo me ancora di più, tutto finirà benissimo, lui sarà contentissimo. Però se invece non fosse stato appunto come è una persona notoriamente sua di sinistra, eccetera, eccetera, e probabilmente non avrebbe potuto dire quelle cose, cioè sarebbe scattato un meccanismo di interdizione che non avrebbe avuto, in fondo, quasi il solo Bocca, ho letto sui giornali Bocca e Aldo Aniasi, vabbè, insomma, via. panza ha le spalle più larghe di tutte e due, insomma. Questo è molto triste, mi fa essere, insomma, mi conferma un po' nel pessimismo, ecco, dovessi dire. Ma ci sono paesi dove la storia non è utilizzata in questa agitazione politica? No, guardi, non lo so. Sì, se non ci fosse la poesia, se non ci fosse la politica, cosa che... No, nel 1900 è già avvenuto, diciamo così, paesi nei regimi totalitari possiamo dire, in effetti una bella definizione, non c'è la politica appunto, che insomma, la politica come la intendiamo noi consiste nel costruire il consenso e quindi insomma, nell'usare tutto e anche quindi la storia. E nei regimi totalitari mi viene da dire, no, ma il problema non è naturalmente quello che si chiama anche lì, insomma, secondo me è una espressione che si usa troppo, l'uso pubblico della storia. Perché appunto io l'unico uso privato della storia è quello appunto del delfino di Francia, che era, appunto li facevano, come è noto, le storie ad uso un delfino, l'uso più pubblico e politico che c'è naturalmente. Cioè la storia è così, è fatta così, cioè la storia è la storia. Cioè la storia è una cosa che è impregnata di politica. Il punto non è l'uso politico, oltretutto anche uno statuto conoscitivo abbastanza incerto, stabilito, vabbè, che se un fatto è avvenuto quel certo giorno io non posso falsificare il giorno, però poi posso falsificare molte altre cose semplicemente interpretando, quindi una disciplina fortemente interpretativa in cui si possono dire mille cose diverse. Il problema è appunto, diciamo, teniamo sempre lì, insomma, il livello delle polemiche e soprattutto direi un'altra cosa, cito un fatto che molti ricorderanno, no? Le fortissime polemiche che ci furono quasi ormai 30 anni fa, 1975, quando uscì l'intervista sul fascismo di De Felice, laddove il problema non fu, cioè secondo me la cosa interessante su cui riflettere, non è tanto le polemiche, ma che quelle polemiche avvenissero a esattamente 30 anni dalla fine della guerra, e che quindi, ricordate, no, le polemiche per esempio sul consenso al fascismo, ma ci sono libri usciti nell'immediato dopoguerra, ci sono le... libro che ha avuto un grande successo, Le lezioni sulla storia dell'Italia contemporanea di Federico Chabot, fatte alla Sorbona, che però lui non volle pubblicate in vita, chissà perché, secondo me aveva un qualche rapporto con il fatto che parlava anche lì di consenso al fascismo, ma comunque che si stampano già negli anni 60, perché Chabot muore. E non hanno suscitato tutte queste polemiche. Cioè, mi viene da dire patologia italiana è che può succedere su questi temi che più ci si allontana nel tempo, c'è un momento, fortunatamente il consenso al fascismo mi pare una cosa ormai insomma, abbastanza che non suscita polemiche, per fortuna, però in cui ci si allontana nel tempo e ci sono polemiche che non c'erano state 10 anni prima. E questa è la cosa. Perché che, quando c'è un cambio di regime, anche questo, cioè cambiare regime politico, soprattutto passare da una dittatura a una democrazia, determina una riscrittura del passato, un uso del passato diciamo, spudorato e vergognoso, ma normale, perché c'è il fatto che i regimi cambiano, le persone sempre quelle sono, e quindi c'è un processo di riscrittura, di falsificazione, benissimo. È la cosa strana nel caso italiano, cioè benissimo, un fatto normale da studiare, insomma, è che appunto nel caso del fascismo allontanandosi dal tempo, ma questo vale anche appunto adesso non più per il fascismo ma per gli avvenimenti del 43-45, ormai appunto siamo a mezzo secolo, 60 anni, cioè che ci sono polemiche che non ci sono state magari in passato, cioè, questa è la cosa che è veramente stupefacente, insomma, molto, molto nostra, insomma, molto italiana. La mia curiosità non è che era una curiosità molto limitata, storica riguardo il mondo. Quando ha parlato di quanto processo di germanizzazione nei confronti della Gardini, no? A quel periodo si riferisce, cioè se anche la guerra mondiale. Prima, fine 800, fino alla prima guerra mondiale. Perché allora mi viene. Quando l'uso della lingua italiana è stato in pratica escluso, sostituito da quella tedesca. Sì. Il paradosso viene, cioè, magari con l'avvento del fascismo che ha congelato la situazione, non abbia, certo, a questo punto non abbia fermato il processo di germanizzazione. che adesso che pare sia Sì, beh, il fascismo ha reintrodotto la lingua italiana dappertutto e quindi in un certo senso... Paradossalmente potrebbe aver salvato, diciamo, protetto la cosa, i ladini da una germanizzazione che poi... Però introducendo l'italianizzazione e quindi negando l'elemento ladino, ecco, perciò non è che... Né... Non è un merito, no. Sì. La germanizzazione, cos'era una spinta proprio tendente a inglobare sì, certo. da parte dei movimenti nazionalisti tedeschi, no? Cioè i ladini in pratica non venivano considerati né da parte italiana né da parte tedesca e sia gli uni che gli altri cercavano di appropriarsene chiaramente per avere forza comune, no? All'interno del Sud Tirolo e quindi certo queste associazioni pangermanistiche lo scopo loro è quello di inserirsi e quello di far diventare le varie ladine più tedesche come le associazioni italiane volevano farle diventare italiane, no? Cioè nessuna delle due aveva a cuore il mondo ladino e ecco con la prima guerra, col fascismo naturalmente c'è un processo di italianizzazione forzato, cioè il mondo ladino viene completamente disconosciuto, come dicevo, come lingua, come usi, costumi, cioè i ladini non vengono assolutamente, che poi si blocchi il processo di germanizzazione, questo è vero, però viene portato avanti il processo di italianizzazione, quindi non so dire se questo può aver in un certo senso favorito, almeno a Val Gardena, sì, può anche darsi che come effetto non voluto sia stato quello di, in fondo, fermando la germanizzazione. C'è una cosa, confesso che non mi comincio, ho sentito con molto interesse entrambe le relazioni che mi hanno seguito. Ecco, c'è una cosa che non mi convince sul fascismo i ladini, e mi prego insomma di non accusarmi di voler rivalutare il passato regime, ma il punto è questo, che certamente non ci fu nessun rispetto del fascismo per gli usi e i costumi dei ladini. Ma questo però è una cosa che va, immagino, poi un argomento di cui confesso la mia ignoranza, insomma, questo immagino che vada imputato per, diciamo così, l'aspetto di snazionalizzazione forzato al fascismo per, diciamo così, la durezza di questa linea. Ma in questo io penso che probabilmente, ma un po' mi butto perché della questione specifica confesso di non sapere nulla, c'è una minore differenza fra il fascismo e il regime liberale di quanto non ci sia fra noi oggi, la nostra sensibilità culturale, quello che pensiamo debbano essere i valori di una comunità, e presi insieme il fascismo e l'Italia liberale. Cosa voglio dire? Voglio dire che un autore, diciamo così, doc del liberalismo come John Stuart Mill, alla metà dell'Ottocento, cioè uno dei grandi esponenti del liberalismo inglese, che cosa dice? Dice che il vero guaio è se in un paese ci sono, diciamo così, due nazionalità che si equivalgono. Perché? Perché la cosa migliore è che ce ne sia una più forte e maggiore, che fa che cosa? Mangia l'altra, perché fa parte di un mondo, appunto, il mondo dell'Ottocento, in cui è più importante essere nell'Ottocento che essere liberale invece di essere un democratico rivoluzionario come Mazzini, ma su questo la pensavano allo stesso modo. La cosa importante è appunto che la storia del mondo è una storia, diciamo così, di nazioni che non devono essere fatte altro che, questo anche il liberale Stuart Mill lo pensava, da persone così che hanno la stessa lingua. La stessa. Quindi il progresso è la situazione in cui appunto una minoranza viene annullata, cosa che a noi ci fa orrore, ma in questo senso, povero Stuart Mill, adesso non lo voglio accusare di nulla, però è più vicino a Mussolini questo, e tutte e due sono molto lontani da noi, cioè c'è proprio che è cambiata radicalmente la nostra percezione ovviamente di questi problemi, insomma, ecco. Sì, ecco, io però, certo, questo è vero, ma io ho cercato di percorrere quello che era il modo dei ladini di sentire se stessi. Loro hanno vissuto il fascismo e quindi hanno percepito la concezione di quello che poi, appunto, quella liberale, sì, quella non... non l'hanno vissuta. Franco, che mai? Sì, mi sembra che sia interessante ricordare alcuni punti, disarmare il passato, mi piace molto come termine, dovrebbe anche forse voler dire che dobbiamo vederlo un po' più distante, dobbiamo aspettare di più. E io penso che tutto il nostro percorso di memoria e identità sia uno studio di distanza che ancora non c'è, di obiettività che non si riesce ad avere. E infatti l'osservazione giusta è continuamente quella di dire c'è la politica che ci impedisce di passare dalla memoria alla storia. Mi sembra che sia un po' questo il concetto, cioè noi qui avremmo bisogno di più storia e meno memoria. E qualche volta mi penso che finché non sono morti tutti quelli che hanno vissuto per una cronaca, diciamo, abbastanza vicina, una memoria personale, cioè una storia personale, non riusciamo a fare la storia con la S maiuscola. Io non so, mi piacerebbe sentire dai relatori così un suggerimento, una speranza, no? Un tono di speranza riguardo a questa possibilità che abbiamo di non dover attendere 100 anni per superare determinate cose, ma di avere un atteggiamento positivo di ricerca di una storia che non sia solo conflittuale. Questo perché noi, essendo in un territorio di frontiera, siamo necessariamente in una situazione dove no, queste memorie cozzano uno contro l'altro. Ci troviamo in una zona dove gli abitanti hanno combattuto uno contro l'altro e noi abbiamo una zona dove ci sono dei festeggiamenti alla vittoria che si riferiscono alla vittoria di uno che è stata la sconfitta dell'altro. Dunque è lì il problema e è molto bello parlare appunto in generale di queste cose, però io penso che se non ci caliamo nella nostra realtà di territorio di frontiera non riusciamo mai a fare un passo avanti. Ecco, io volevo sentire da voi se c'è una speranza in questa direzione oppure se dobbiamo aspettare altri 50 anni per poter parlare un po' del fascismo, del nazismo e delle cose che hanno avvelenato la nostra società. Non è morti tutti i protagonisti, ma anche i loro figli, i loro nipoti, i loro propri nipoti, cioè tutti quelli che poi sembrano ricordo di questi protagonisti. Qui c'è un equivoco, perché noi adesso, appunto, e mi sembra già abbastanza, sono passati 60 anni, ci sono queste cose così dure, forti e aspre su 60 anni fa. Ma è limitata, cioè la possibilità di mettere altra carne al fuoco. Nel 2098 si discuterà di un'altra cosa, cioè voglio dire, non vogliono mai tutti, perché diciamo così, ognuno ha il suo passato, le sue memorie, cioè è vero naturalmente che è ovvio, poi qui c'è una divisione che ha il suo momento di origine, per di più nella Prima Guerra Mondiale, per cui ancora più indietro. E poi ci sono stati il fascismo, poi c'è stata appunto la resistenza, l'Italia appunto la guerra civile, Salò, tutte queste cose, però si può andare avanti ancora per un pezzo, insomma, che cosa è stata la Democrazia Cristiana? Siamo stati governati da una banda di delinquenti che erano manovrati dai servizi segreti americani oppure no? Oppure è stato, come diceva peraltro anche Amendola, appunto, ma lì c'è sempre la solita cosa, il caso Panza, cioè che essendo appunto di sinistra nessuno gli ha detto nulla. Oppure comunque con tutti i difetti, le incapacità dei governi che ci hanno governato per tanti anni, comunque c'è stato un avanzamento del paese, eccetera. Cioè, quelle sono due memorie completamente divaricate. Poi, insomma, non sono memorie di una guerra civile, per cui magari il discorso è più pacato, però sono proprio come fossero le storie di due paesi che uno proprio non riesce a trovare. Il problema non è che appunto si faccia la storia unica, ma che insomma su alcune cose, diciamo così, possano passare in giudicato. Poi ci sono, come ci saranno sempre, speriamo, differenze di opinioni, di giudizi su questo, su quello che ha fatto Tizio, ha fatto Caio, insomma. E quindi si può sempre mettere altra carne al fuoco, insomma. Certo, appunto, è un fuoco probabilmente che brucerà meno perché non ci sono fatti della obiettiva drammaticità appunto della seconda guerra mondiale e tutto ciò che è venuto dentro, o per la zona dove stiamo parlando, cioè della prima. Però appunto il problema che in qualche modo bisognerebbe disinnescare questo meccanismo perverso rimane anche per il futuro, perché poi ci sono sempre quelli che sono morti, ma sono quegli altri che invece ricordano benissimo, e si va avanti così, insomma. Se tu vuoi, do la precedenza, visto che hai parlato così poco. Ma io non sarei così pessimista come il signor Kettmeier. Penso che 30 anni fa o 40 anni fa non sarebbe stato possibile avere un tavolo storici di diversa estrazione linguistica o anche nazionale, se vogliamo. In questo si è fatto moltissimo. Penso che la comunità degli storici nell'ambito del Sud Tirolo Alto Adige ormai sia un buon punto di avvicinamento, pur mantenendo anche delle posizioni ben specifiche, anche differenziate, anche conflittuali, ma c'è un grado di comunicazione che è sicuramente notevole, e di questo ne siamo anche fieri, signor Kettmeier. Dall'altra parte, per quanto riguarda una cultura storica generale, lì bisogna ancora fare moltissimo, poiché lì c'entra la politica strumentalizza immediatamente, diciamo, tutti i residui storici. Vediamo proprio in questa fase preelettorale come la storia riappare subito come elemento politico, e questo è anche una certa, c'è anche dentro una certa ritualità, dobbiamo dire, non è che siano delle lotte profondamente sentite da tutti, da una parte sì, ma non da tutti, è una cosa anche rituale. Penso che lì si tratta da una parte che la società civile si impegni fortemente a capire le diverse storie, i diversi passati, anche le diverse memorie tra i vari gruppi linguistici. Lì l'impegno ci vuole a livello individuale. Noi come storici abbiamo lavorato tanto e per anni per comprendere le nostre rispettive posizioni. E questo sforzo è richiesto, seppur in tono minore, anche da parte della società civile, è richiesto in tono molto maggiore da parte della politica, da parte di una politica culturale che, per quanto riguarda di creare una cultura storica della contemporaneità, si rifiuta quasi totalmente a creare delle strutture che consentano di imparare, di insegnare la storia, di sperimentarla. Abbiamo tantissimi musei che riguardano la storia di questa terra, le culture di questa terra, ma non abbiamo nessun museo di storia contemporanea. E lì bisogna insistere e puntare su questi elementi anche di visione comparata della storia. Io sarei del parere che si può ancora fare moltissimo. Non avremo mai, diciamo, una storia pienamente condivisa, ma avremo la capacità, la possibilità di vedere la nostra storia, di vedere la storia degli altri, dei vicini, con la loro testa, anche pensare con l'altra testa. Io penso che in questa direzione bisogna muoversi, e sono convinto che si riesca con quello che noi storici stiamo facendo e con quello che la politica dovrebbe fare e non lo fa ancora. Da quanto conosco del mondo sudtirolese, io ho sempre apprezzato in questi 20 anni, visto l'impegno, il tentativo di tanti studiosi storici proprio di parlare appunto del passato in maniera molto critica, appunto facendo vedere le luci e le ombre, facendo vedere gli aspetti che sono stati taciuti, chiarendo aspetti che sono stati taciuti fino a un po' di tempo fa. Quindi questo lavoro di chiarificazione mi sembra che in questa zona di frontiera, che è così difficile, no? I nostri amici qui sudtirolesi abbiano il grande merito di aver portato avanti. Per quanto riguarda il piccolo, no, del mondo ladino, ecco, anche qui direi, come dicevo prima, che sono cominciate a emergere, a venire fuori, a aver luce in questi ultimi 20, 30, 40 anni, non solo la memoria, anche proprio dall'interno del mondo ladino, non solo la memoria unificata, la memoria unica, no? Quella, la memoria mitica, no? Omologata, certo, ma sono emerse, sono diventate anche, state portate a livello ufficiale, conosciute, le voci anche dei dissidenti, le voci di chi ha vissuto storie diverse, e questo mi riferisco al periodo delle opzioni, al periodo della Seconda Guerra Mondiale, cioè è emerso un quadro molto più complesso di quello che era emerso fino a un po' di anni fa. Io stessa ad esempio ho raccolto sul periodo delle opzioni tutta una serie di testimonianze, ho fatto tutto un lavoro in cui emergono le voci più diverse all'interno del mondo ladino. Ecco, quindi mi pare, anch'io non sarei così pessimista, mi pare con un po' di fatica, ma anche la gente mi pare che capisca ormai questo discorso, almeno che cominci ad essere capito queste le voci diverse, cioè che la storia emerga non più così unilaterale, ma si stia il quadro, si stia arricchendo dei vari tasselli. Certo, appunto, un lavoro difficile per chi ha vissuto certe cose, accettare, no? Riconoscere il resto, però mi pare che sì, nemmeno io sarei così pessimista, che bisogna aspettare ancora generazioni. Allora, sono le 8:10, io ringrazio il pubblico e i relatori. Questa sera abbiamo citato Wolfgang Hobsbawm e il suo libro sull'invenzione della tradizione. Noi tutti sappiamo che le tradizioni non esistono da sempre, sono state inventate magari nell'800, magari nel 700. Una delle tradizioni però di questa biblioteca provinciale è di offrire un buffet al pubblico alla fine delle relazioni. Quindi ci sono, questa tradizione è molto, molto recente, però bisogna approfittarne. Grazie.